Sconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Soffriamo, dobbiamo rivedere alcune cose in questa nazionale, dobbiamo essere più cattive sportivamente parlando, questo è il nostro mondiale, dobbiamo reagire. La porta rimane lì, 25-20, la Cina si prende anche il secondo set, diventa dura, però la nostra nazionale ha le possibilità, le caratteristiche per tornare in partita, vogliamo rivedere quell'Italia che ci ha fatto divertire in questo mondiale fino a questo momento. Distribuire, a cercare Diouf, il braccio di Diouf, ecco, 25-20, riapriamo la partita, ci siamo anche noi in questo match, ci siamo anche noi in questa semifinale. Tornata del core, con lo bianco a cercare Centoni, l'attacco di Centoni, lo salvano ancora, con Way a innescare Way, l'attacco di Way, il mani fuori, l'Italia è alla finale del terzo e quarto posto, la Cina si prende questa finale giocando una partita praticamente perfetta, l'orgoglio, la voglia di questa grande Italia che comunque è ancora qui in questo mondiale, si giocherà per la medaglia di bronzo. Hanno ricevuto bene, noi abbiamo avuto qualche problema soprattutto a mettere giù le palle di contrattacco e i primi due set sono andati via abbastanza veloci, poi abbiamo provato in qualche modo anche cambiando tutta la formazione, sbilanciando un pochino la ricezione, però avendo qualche cosa di più in attacco ci abbiamo provato. Ringraziamo tutti perché abbiamo sentito che il pubblico era ancora con noi anche se non siamo riusciti ad arrivare in finale, grazie lo stesso. 800 24 00 24, Claudia Schiattone in redazione, Valeria Bernardi in regia, insieme fino alle 19 per vivere una domenica che prometteva molto, prometteva soprattutto di essere la domenica d'oro delle nostre ragazze del volley e invece è solo una domenica di consolazione, speriamo una domenica di bronzo, una domenica che deve comunque chiudere settimane meravigliose per il nostro sport, per la nostra pallavolo. È stata anche una domenica di titoli mondiali, l'ha vinto lo spagnolo Marquez, campione del mondo per la seconda volta a 21 anni nella MotoGP. È stata anche la domenica che ha mandato in fuga Hamilton, primo a Sochi nella Formula 1. È la domenica che ci porta al terzo impegno della nostra nazionale nelle qualificazioni per l'Europeo del 2016, nazionale che pochi minuti fa è decollata da Palermo in direzione Malta domani ore 20:45. La gara che ci deve consegnare la terza vittoria consecutiva. 800 24 00 24, parleremo molto anche di questo, di calcio, parleremo della nazionale di Conte che comincia a far discutere se abbia o no un gioco nuovo, se sia o no migliorato rispetto a quella di Prandelli. Però partiamo dal forum, doverosamente, dove tra una ventina di minuti inizia la finale per il terzo posto della nostra nazionale in questa domenica che doveva essere d'oro. Ciao Dario, Dario Ricci. Un saluto a tutti, Giovanni dal forum. Beh, speriamo, come giustamente hai detto te, che sia almeno di bronzo questa domenica per le azzurre, fra pochissimo in campo contro il Brasile, campione olimpico e altra grande delusa delle semifinali, perché se quella tra Cina e Italia è stata un romanzo, una battaglia dalle mille facce e ai noi da un solo sfortunato epilogo, la sconfitta delle brasiliane con le statunitense è davvero una sorta di assagoasso, ecco, chiamiamola così, piuttosto che maracanazzo e mineraso, che hanno contraddistinto invece soprattutto l'ultimo l'estate dei colleghi calciatori. Quindi veramente grande sorpresa e staremo a vedere quanta voglia ancora avranno le brasiliane di contenderci questa medaglia di bronzo. Sì, raccontami un po' dell'atmosfera del forum, ovviamente immagino esaurito, perché esaurito da giorni per questa giornata finale del Mondiale Italiano. Tutti si aspettavano la finale dell'Italia, tutti si aspettavano questo Italia-Brasile, però giocato fra tre ore, giocato per la medaglia d'oro. Raccontaci un po' che cosa resta di questa domenica, che è una domenica che viviamo con un pizzico di delusione, inutile nasconderlo. Sì, sì. Intanto sentirai in sottofondo la festa assoluta che 12.000, ma credo anche qualcuno in più del forum stanno facendo. Già da un po', considero che io sono ben lontano dal campo di gioco, eppure immagino che il sottofondo sia ben udibile. Va sottolineato che questo tutto è esaurito, però come è nato? Ben prima che l'Italia potesse ambire a questo podio, perché tutto sommato era già da diverse settimane che il forum era sold out e l'Italia è stata brava ad agganciarsi a questo treno con le sue prestazioni. Quindi sì, è stata brava ad agganciarsi, a creare grandissima partecipazione intorno a questo mondiale. Prego Dario, ti abbiamo riagganciato, c'è stato un problemino di linea. No, eccoli. Sì, dicevo appunto, è stata brava l'Italia ad agganciarsi a questo treno di entusiasmo per una manifestazione che tutto sommato è riuscita, lo dicono i numeri di pubblico, lo dice anche questa Final Six del forum che ha avuto una partecipazione straordinaria, e soprattutto un'Italia che arriva sì a questa finalina per il bronzo, per la quale forse probabilmente 20-25 giorni fa, quando questo mondiale dalla formula magari un po' macchinosa ma sicuramente attraente è iniziato, più di uno avrebbe firmato sia in federazione sia probabilmente anche tra le azzurre. Quindi è una partita che posto che va valutata in quest'ottica. Certo, quello che rimane nella memoria è la serata di ieri sera, dove probabilmente questi 12.000 hanno messo anche un po' paura le nostre ragazze che sono entrate, lo si vedeva nella zona mista prima della partita, con uno sguardo un po' diverso da quello che l'aveva contraddistinta nelle altre sfide. Sono 12.000, possono essere paradiso inferno, no? Per tanti aspetti, probabilmente ieri si è sentita più sulla squadra la pressione di dover ottenere un risultato che in molti attendevano, e questo è stato pagato forse in termini di leggerezza, di audacia, di grinta. Sì, pressione che evidentemente non è semplice da reggere per nessuno, nemmeno per una squadra che è stata abituata in queste settimane a giocare il mondiale di casa, a sfruttare molto bene l'effetto, il trascinamento dell'entusiasmo in tutte le città che ha toccato, a partire da Roma e per arrivare a questa Final Six di Milano. Dunque 17:30, finale per il bronzo, Italia contro Brasile in questa domenica. Noi, lo ripeto, siamo qui fino alle 19, ve la racconteremo in diretta dal forum, quindi Dario rimani lì perché adesso c'è il traffico, poi ci ritroviamo. 800 24 00 24, traffico. Tutti convocati. Sono partite contrate, cioè almeno io da fuori vedevo la squadra che era molto tesa, faceva fatica a ingranare con il nostro gioco, abbiamo un po' subito il loro. Non è facile da 2-0 tornare su, perché comunque stiamo facendo una semifinale, loro sono una delle squadre più forti del mondo e non te lo concedono tanto facilmente, ecco. Io ce l'ho messa tutta e ho cercato di dare la mia disponibilità in tutti i fondamentali. Ho giocato da posto 4, che non è il mio ruolo, e ho cercato di farlo al meglio. Non devo fare altro per aiutare la squadra. Queste le lacrime della Diouf ieri. 800 24 00 24, la cartolina perfetta, la cartolina esatta di quella che è stata la serata di ieri al forum. Squadra in campo, Dario, per il riscaldamento Italia-Brasile. Sì, squadra in campo per il riscaldamento, però banale dirlo, ma avversaria che poi... Sì, abbiamo qualche problema ed è evidente con il forum tutto esaurito, forum nel quale torneremo da qui alle 19 per raccontarvi l'andamento di questa finale di consolazione, terzo quarto posto. Però non buttiamo via niente, perché una medaglia di bronzo sarebbe una medaglia importantissima in una domenica in cui, abbiamo detto, c'è stata anche la vittoria di Hamilton nel Gran Premio della Formula 1 a Sochi in Russia, prima volta in Russia Hamilton che ha vinto davanti a Rosberg, sul podio anche Bottas, poi Button, Magnussen, poi la solita Ferrari deludente, sesto Alonso e nono Raikkonen. Poi c'è stato il secondo titolo mondiale nella MotoGP, secondo consecutivo a soltanto 21 anni, con davanti una carriera straordinaria per lo spagnolo Marc Marquez, che a Moteghi è arrivato secondo dietro a Lorenzo. Valentino Rossi è finito anche lui sul podio. E poi c'è la nostra nazionale che, dopo aver battuto venerdì sera all'Azerbaigian, sta volando verso Malta. Sta volando l'Italia verso Malta. Parliamo ancora di pallavolo. Rachele San Giuliano, ciao Rachele. Ciao, buongiorno a tutti. Come ci si rialza da una serata come quella di ieri? Bisogna farlo per forza, perché tra pochi minuti c'è la finale da giocare, che comunque regala una medaglia, e quindi bisogna recuperare le energie e pensare solo a portare a casa un risultato che comunque è già bello, è già importante, ma può esserlo anche di più. Ma è un bronzo che vale se arriva, lo abbiamo sentito, bronzo che tanti avrebbero sottoscritto prima dell'inizio di questo mondiale, bronzo che inevitabilmente, anche se arrivasse oggi, avrebbe un po' un sapore amaro, vale o no? Beh, è normale, perché comunque tutti abbiamo sognato, le ragazze in primis ci hanno creduto, e qualche pensierino alla finale e poi al risultato migliore lo si fa per forza. Io penso che questa nazionale comunque abbia già vinto, perché ha fatto rinnamorare di questo sport una nazione intera, tanto che si è conquistato sempre più spazio sui giornali, sulle radio, in televisione, quindi tutta l'Italia è sentita di azzurro. Magari adesso non si potrà tingere anche del colore dell'oro, speriamo di quello del bronzo, ma comunque io la vedo come una vittoria. Sì, poi c'è questo dato incredibile, la partita della nazionale di pallavolo femminile venerdì sera, che ha battuto Crozza, un mostro di ascolti in televisione. Ma finalmente, fatemelo dire, finalmente, vuol dire che si sta muovendo magari qualcosa, ma è vero che poi il motore di tutto nello sport sono le vittorie. Però è anche come arrivano queste vittorie, quindi le ragazze hanno fatto vedere che sono una squadra forte, un bel gruppo, hanno fatto divertire, che è stata la cosa fondamentale. Cos'è successo ieri sera? Un blackout, troppa pressione, perché è difficile giocare davanti a 12.000 persone, con i favori del pronostico, con tutta una nazione che ti spinge, cos'è successo? Ma le attenuanti del caso ci sono tutte, poi lo sport è fatto di episodi. E le partite secche sono così, o le vinci o le perdi. La Cina ha fatto una partita impressionante, in difesa sono state precisissime. Io so che Jenny Lamping, che è l'allenatrice della Cina, è stata anche la miglior giocatrice del secolo, e è un'allenatrice che cura tantissimo la preparazione, fa tantissime ore di video, e si è visto, perché le ragazze in campo erano posizionate perfettamente. Per l'Italia era difficile mettere la palla per terra, quando ci provi una, due, tre volte non ci riesci, poi inizia a entrare nella testa l'idea che magari non è così facile come lo è stato nel giro di qualificazione, più ci metti il carico da 90 di cui abbiamo parlato prima, e ci sta anche una sconfitta, insomma. Sì, sarà stata una lunghissima vigilia nel ritiro della Cina, anche nel ritiro dell'Italia, ovviamente. Secondo te quanto peserà oggi, e poi ti salutiamo, meno di 10 minuti all'inizio di questa finale per il terzo e quarto posto, quanto peserà oggi il fattore delusione tra Italia e Brasile? Perché anche le brasiliane, diciamo la verità, si erano programmate per arrivare alla finalissima di questa sera. Ma guarda, io spero che non pesi più di tanto, perché quando sei in campo alla fine devi pensare a una cosa, che è la vittoria e portarla a casa, quindi è comunque una finale, non è che adesso le ragazze si stanno giocando, non so, una briscola in famiglia, si stanno giocando un podio mondiale, quindi anche se non è quello più alto, però è comunque un risultato importantissimo. E quindi ci teniamo stretto tutto, compreso questa finalina che ci accompagna in questa domenica. Grazie Rachele. Grazie a voi. Grazie a Rachele San Giuliano, ciao. Schiavi per lo meno di un'idea come di un'altra, di un mistero. aspettavo qualcosa di più e di diverso da questa nazionale. Mi aspettavo una ripartenza. Qui vedo molta attenzione al campo, molta attenzione al risultato, ma contro avversari che non sono alla nostra altezza, che non sono all'altezza di un calcio medio. C'è stata una buona reazione da parte nostra, dimostrazione che questa è una squadra che ha gli attributi. Credo che la nazionale in questo momento potrebbe lottare per arrivare terza o quarta in campionato. Io pensavo sinceramente che ci fosse spazio anche per cercare di ricostruire qualcosa. Abbiamo cominciato con energia, certamente con energia, ma su basi tecniche francamente che quasi non ci appartengano. Penso che sia una vittoria meritata, striminzita, e meritavamo un punteggio più largo. Molto più indietro di quello che c'eravamo, che avevamo avuto non solo con Prandelli ma anche prima di Prandelli. Mi aspetterei una squadra che sappia giocare bene a calcio o che tenti di giocare bene a calcio. Faccio fatica a dover entusiasmarmi per questo tipo di vittoria o per quella con la Norvegia. Vorrei vedere qualche cosa di diverso, ma per carità mi accontento. Insomma, abbiamo detto la nazionale è partita per Malta, 800-24-0024. Io intanto saluto Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Mirko. Ciao, ciao a tutti. L'hai sentita la provocazione di Sconcerti che io giro anche agli amici da casa? Lui dice: io non mi entusiasmo per questo inizio della nazionale di Conte, mi sembra di non aver visto nulla di particolare se non un po' di entusiasmo. Questa è una squadra che nel campionato italiano faticherebbe ad arrivare quarta. 800-24-0024. Giro anche agli amici da casa questa provocazione, cioè dopo il grande entusiasmo di settembre, dopo aver visto la partita di Palermo contro l'Azerbaigian, io voglio sapere cosa ne pensate della nazionale di Conte. Mirko? Ma insomma, adesso mi sembra un po' presto per dare dei giudizi definitivi. Io non penso che Conte cerchi di entusiasmare in questa fase, cerca più che altro di creare un gruppo, cerca di portare a casa più punti possibili contro nazionali obiettivamente non eccezionali, per poi poter magari programmare proprio il suo tipo di lavoro, per poi poter andare a cercare quello che vuole dalla sua squadra. Non è questo il momento dello spettacolo, su questo sono d'accordo con Mario, non è una squadra spettacolare, ma non credo che stia cercando questo Conte in questo periodo terminato. Insomma, c'è altro da fare prima, ecco, c'era da ricreare un gruppo, c'era da ricreare un po' di certezze all'interno di una nazionale che aveva deluso e aveva perso certezze durante il mondiale. Quindi io credo che finora, per ora va bene così, credo che vada bene così, ecco, questo è il mio pensiero. Sì, quella sul fatto che quest'Italia arriverebbe al massimo quarta nel campionato italiano è evidentemente una provocazione. No, ma in generale tutte le nazionali non vincerebbero lo scudetto del loro paese, in generale, perché comunque non credo che la Spagna farebbe meglio di Real Madrid e Barcellona, ecco, tanto per essere chiari. Cioè è difficile che una nazionale possa fare meglio della più forte squadra di club del campionato. Sì, c'è però che venerdì, obiettivamente, al di là del risultato, c'è stato un passo indietro. Abbiamo rivisto la solita Italia che conosciamo in queste partite qui, quelle contro avversarie minori, spesso nelle amichevoli arrivano poi le sconfitte, partite che danno pochi stimoli. Abbiamo un po' visto i vecchi vizi, quelli che eravamo abbastanza sicuri non esistessero però più, visto, anche per la capacità di Conte di portare entusiasmo. Un qualcosa di diverso l'ho visto, è vero, la solita Italia contro le squadre piccole, magari un minimo di demotivazione, cioè tutte queste cose, però ho visto l'Italia che, preso l'1-1 a un quarto d'ora dalla fine, 10-12 minuti dalla fine, è ripartita esattamente da dove era prima di prendere il gol. Comunque si è riversata con ordine, non con disordine, in avanti, ha trovato il gol, ripeto, non aveva di fronte il Real Madrid o non aveva di fronte il Brasile, però ha trovato il gol con una certa tranquillità, cosa che in passato non avveniva. Cioè noi, preso il gol, presa la scopa a 10-12 dalla fine, andavamo nel panico. Questa squadra perlomeno non è andata nel panico, certo al netto del valore dell'avversario, però in passato le nostre squadre finivano nel panico. Qui hanno ripreso in mano lo spartito da dove l'avevano lasciato dopo 1-1 e sono ripartiti. Quindi già questo secondo me è un qualche cosa di diverso, è un ordine diverso in campo, ecco. Io vedo un po' più di disciplina in campo. Sì, ci attacchiamo a quel quarto d'ora finale. Mirko, ti chiedo un minuto di pazienza. Abbiamo il meteo 800 24 00 24. Mi interessa sapere anche da casa che cosa ne pensate di questa nazionale di Conte, se venerdì sera vi è piaciuta, se ha ragione Sconcerti che dice: io non ho visto nulla di diverso rispetto alle nazionali che hanno preceduto questa, non vedo perché dobbiamo entusiasmarci. 800 24 00 24. Applausi per lui, pubblicità per noi. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Ancora dalle parti di Giovinco, c'è il movimento di Candreva, il colpo di testa, ancora Chiellini, ancora Chiellini, ancora Chiellini, Italia 2, Azerbaijan 1, segna Chiellini, doppietta e grande esultanza, ha segnato Giorgio Chiellini. E l'assist è stato di Giovinco. Passano gli anni e non riesce a trovare una maglia da titolare fisso. Ti sei rassegnato o no? No, rassegnato no, non è nelle mie, non è nella mia persona rassegnarmi, però sicuramente ci sono da valutare tante cose, adesso non ci voglio neanche pensare, io penso a dare il massimo, cerco di fare come ho fatto stasera, come ho fatto a Torino tante volte e niente, poi fine anno vedremo come fare, cosa fare e se continuare con la Juventus. 800 24 00 24. Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. È Giovinco quello che cambia tra Malta e Azerbaigian. Oggi tu hai scritto: attenzione, Conte sta lavorando per tirarlo indietro di qualche metro, farlo giocare da interno, creare per lui un percorso tattico diverso. Sì, non credo che sia un qualche cosa di attuabile con una certa, diciamo, con un certo minutaggio già a Malta, però questa è un'idea che ha in testa il CT e secondo me è un qualche cosa che potrebbe fare bene anche a Giovinco, che in effetti là davanti faticano un poco nel, diciamo così, nel calcio moderno, ecco, molto fisico, dove si richiede la presenza di attaccanti abbastanza pesanti, soprattutto in questa fase della nazionale. E ci sta pensando, ci vorrà anche tanta disponibilità da parte del giocatore naturalmente, soprattutto Conte ci sta pensando perché ha bisogno di alzare un po' il tasso tecnico di questa nazionale, che al momento è sicuramente compatta, è sicuramente organizzata, ma francamente dal punto di vista appunto della fantasia e dell'imprevedibilità lascia parecchio a desiderare. Insomma, mancano, se togli Pirlo, mancano uomini di una certa fantasia, ecco, una squadra diciamo abbastanza prevedibile nel suo modo di avanzare, quindi qualche cosa va fatto, qualche cosa va cercato e Conte ci sta provando. Sì, nazionale che ha avuto certamente una scossa emotiva, psicologica con Conte, manca ancora il salto di qualità a livello di organizzazione di gioco, a livello di qualità c'è un amico che ha scritto al 349-238-6666, se volete mandare i vostri sms, ha ragione chi analizza che questa è una nazionale che non entusiasma, forse per avere un po' di qualità in più basterebbe inserire un trequartista, credo che non sia nei piani di Conte. Non in questo momento, anche perché bisogna tener conto che quando costruisci poi una squadra devi costruirla anche con determinati equilibri e in questo momento l'Italia non sembra adatta a reggere la presenza di un trequartista e francamente non vedo in circolazione un trequartista affidabile e di un certo livello, insomma, per cui poi costruisci la squadra attorno. Magari questo radioascoltatore pensava per esempio a Berardi o un giocatore così, ma lo stesso Berardi insomma ha dimostrato ancora di non essere un giocatore affidabilissimo, mi riferisco per esempio al cartellino rosso beccato a Milano contro l'Inter e alle tre giornate conseguenti di squalifica. Sì, tipologia dei giocatore che non piace a Conte dal punto di vista caratteriale. Ecco, no, esatto, bravo, caratterialmente, nel senso che Conte ha detto datemi Zidane, datemi Maradona e io ci costruisco la squadra attorno, non me ne frega più niente dei movimenti, delle sovrapposizioni, però trovatemi Zidane e trovatemi Maradona, ha ragione, in Italia non c'è né Zidane né Maradona, non ci sono giocatori neanche che si avvicinano lontanamente e quindi secondo me fa bene a seguire la strada della massima organizzazione di gioco e a ottenere risultati attraverso questa via. Poi se Berardi dovesse diventare il giocatore che tutti sperano, e allora è un altro discorso, ma al momento francamente non vedo in circolazione giocatori sui quali puntare ciecamente. Prandelli in un certo senso l'aveva fatto al mondiale su Balotelli e Cassano e i risultati li abbiamo visti tutti. Sì, anche perché poi noi abbiamo una certa riluttanza ad affidarci a quelli che sono i nostri talenti. Mi pare di aver capito che domani sera non giocherà Verratti titolare, ci sarà ancora Pirlo. Io da tempo combatto questa battaglia isolato, non riesco a capire perché un titolare del Paris Saint-Germain che gioca ai quarti di finale, semifinali di Champions, che vince i campionati francesi, debba avere dei problemi a trovare posto in questa nazionale. Però evidentemente guarda, hanno ragione i vari CT. No, in linea di massima posso essere d'accordo. Siamo in con due. Te. Il problema no. Io non, in realtà ti dico, con questo sistema di gioco mi devi dire dove metti Verratti, lo metti al posto di Pirlo. Ma se io dico che faccio giocare Pirlo non è che dico che bestemmio, capito? Quindi perché Verratti interno non è in grado di giocare, non gli piace nemmeno giocare evidentemente, o quantomeno non ha le caratteristiche del giocatore che cerca Conte. E allora lì la lotta è con Pirlo e De Rossi, ma francamente se tu scegli De Rossi, se tu scegli Verratti, Tizio sceglie De Rossi e io scelgo Pirlo, penso che nessuno dei tre sbagli, no? Sì, resta che due staranno fuori, cosa che per la povertà di talento che ha il nostro calcio in questo momento può sembrare un paradosso, suona come un paradosso in questo momento. E anche sfortuna che i talenti siano tutti nello stesso ruolo, ecco. Ne abbiamo troppi davanti alla difesa. Per chiudere, abbiamo parlato prima di giocatori caratteriali, c'è un amico che scrive: siete già pronti a cambiare idea su Conte? Scommettiamo che dopo la prossima partita chiederete tutti a gran voce il ritorno di Balotelli, di cui le ultime notizie sono il solito tweet da Liverpool, ha scritto ai suoi tifosi: abbiate pazienza perché non vi deluderò. Mi sembra che resti per il momento lontanissimo dal pianeta Italia. Beh, intanto non sta dimostrando di valere la nazionale in questo periodo, nel senso che non sta giocando bene, ha dei problemi di ambientamento, li supererà senz'altro perché il giocatore è un giocatore che ha enormi potenzialità, però non credo che l'Italia debba in questo momento rimpiangere l'assenza di Balotelli. Purtroppo Mario, che ha delle qualità eccezionali, non si è dimostrato leader in nessun senso. Balotelli in un gruppo può fare la differenza, secondo me, se non viene caricato di nessuna responsabilità. Non è un caso che lui le sue migliori stagioni le abbia giocate all'Inter, quando era un gregario di lusso, extra lusso, meraviglioso lusso, quando era un bambino, poco più che un bambino, comunque un gregario, o al Manchester City, dove appunto era ancora un gregario, cioè non era un titolare fisso. Mario, caricato di enormi responsabilità, sotto la luce dei riflettori, e ogni tanto sbanda, esce di strada e crea problemi anche alla squadra. Non è quindi un giocatore sul quale costruire una nazionale, non è un giocatore sul quale affidarsi totalmente, ecco. E di questo al quale affidarsi totalmente. Di questo passo è lontano un suo rientro a Coverciano, insomma, nell'ambiente azzurro. Grazie Mirko. Grazie a voi, ciao. Mirko Graziano. L'ultima curva e poi andrà a prendersi la bandiera a scacchi Lewis Hamilton per vincere la nona gara stagionale, la 31esima della carriera, come Nigel Mansell, il pilota britannico più vincente della storia della Formula 1, completa con la doppietta, la nona di questa stagione, il trionfo di questa giornata, la Mercedes che conquista il titolo costruttori dopo la Red Bull, la Mercedes sul trono del mondo. Awesome drive, Lewis. Awesome drive, mate. Absolute masterclass. Congratulations to the team on the Constructors' Championship. Great job, man. History in the making. Voci e rumori dalla Formula 1, saluto Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao direttore. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Prima in Russia, prima a Sochi, primo Hamilton, e abbiamo sentito i numeri, nona vittoria stagionale, 31esima vittoria della carriera come Mansell, pilota britannico con più vittorie, soprattutto pilota che parte questa sera da Sochi per tornare a casa sua con 17 punti di vantaggio su Rosberg nella classifica mondiale. C'è la sensazione, c'è il rischio di archiviare in fretta anche questa corsa, visto che oggi abbiamo archiviato anche definitivamente la corsa nella MotoGP? Guarda, io ti dico che Hamilton merita sicuramente il mondiale più del suo compagno di squadra, ha vinto 9 gare, Rosberg ne ha vinte 4, però andrei molto cauto sull'archiviazione di questa pratica, perché l'affidabilità della Mercedes, che oggi è stata straordinaria, in altri Gran Premi invece non lo è stata altrettanto, e dobbiamo ricordare che l'ultimo dei tre Gran Premi che mancano assegna punteggio doppio. quindi chi vince incassa 50 punti, cioè chi arriva secondo ne incassa 36, comunque ci sono 14 punti di distacco tra il primo e il secondo, per cui aspetterei un attimo, perché con l'affidabilità della Mercedes, che non è straordinaria, nonostante sia la macchina più veloce di tutti, ce ne sia sempre una delle due che arriva al traguardo davanti alle altre, però se dovesse capitare un problemino ad Hamilton, ecco che le cose si complicherebbero sì, un po' come si è riaperto proprio per i problemi a Rosberg, che hanno rimesso in corsa Hamilton nel momento in cui sembrava staccarsi. Esatto, perché nelle ultime quattro gare Hamilton ha fatto 100 punti e Rosberg ne ha fatti 52, e qui è stata la svolta del campionato, che invece a Spa sembrava ormai aver preso la direzione del cattivello Rosberg, perché in quel Gran Premio aveva fatto gioco pesante. Oggi invece ci ha provato, ha fatto assolutamente improvvido, ha fatto il goloso, e alla seconda curva del primo giro si è giocato il Gran Premio. Sì, è arrivato lungo, lo raccontiamo a chi non l'ha visto, ha superato Hamilton, ha però dovuto fare una grandissima frenata che di fatto l'ha costretto a spiattellare. Lo ha costretto ad andare subito ai box e a ripartire dall'ultima posizione. Credo che alla fine giornata si sia divertito più lui di Hamilton, che ha guidato al primo posto dall'inizio alla fine senza dover fare un sorpasso. Lui almeno ha continuato a sorpassare gente fino ad arrivare al secondo posto, però gli deve essere rimasta una rabbia dentro per quell'errore che sarà difficile colmare stanotte. Sì, Gran Premio noiosissimo, forse la cosa più interessante è le continue inquadrature di Putin, giusto per capire chi comandava Sochi in questo primo Gran Premio russo della Formula 1. Tra l'altro raccontano da Sochi che hanno dovuto dare 500 pass a agenti del KGB che dovevano rendere sicura la zona, hanno cercato di neutralizzare tutte le trasmissioni radio mentre Putin arrivava, insomma ha creato veramente più movimento lui di poi di quello che in realtà ha creato il Gran Premio. La pista però è stata più interessante di quello che si temesse all'inizio, perché qualche sorpasso dietro si è visto, però ha eccettuato i primi giri, poi alla fine sì, un pisolino c'è stato anche oggi. Sì, c'è un amico che scrive, ha ragione Briatore, dice che la Mercedes vincerà per i prossimi 5 anni. Mercedes che oggi ha vinto il titolo costruttori con 3 gare d'anticipo, questo mondiale si è chiuso, ma del resto lo si era capito già a metà stagione. Direttore, ti chiedo un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, poi parliamo della Ferrari, che oggi è andata come sempre, cioè lentamente e lontana dal podio. Traffico. Tutti convocati. La cosa più importante è Jules, sicuramente in queste 3 settimane speriamo di arrivare a Austin e fare qualche intervista con qualche buona notizia, buona risposta. Sul mio futuro non è una priorità adesso, è da 2 o 3 mesi che è già tutto deciso, la mia testa si sta andando tutto bene nella direzione che voglio, e quando sarà il momento prenderò la decisione migliore per il mio futuro e per il futuro anche della Ferrari, perché in tutte le decisioni e le scelte che ho fatto in tutti questi anni la priorità è che la Ferrari venga al top, perché è quello che merita una grande squadra come questa. Questa è la voce dell'Alonso vagamente depresso di oggi, di tutta la stagione. 8-0-0-24-0-0-24, Alonso oggi sesto, ha fatto un'ottima partenza, poi lì si è fermato. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, è un anno oramai che stiamo parlando più o meno con questi toni delle gare della Ferrari. Diciamo che speriamo che finisca in fretta questo anno, perché sinceramente è difficile poter prevedere nelle ultime 3 gare, anche visto le piste in cui si andrà a gareggiare, dei grandi exploit della Ferrari. Purtroppo un anno nato male e continuato forse peggio, e oggi è un giorno storico però per la Ferrari, perché è l'ultimo giorno di Montezemolo presidente. Da domani infatti il presidente della Ferrari diventerà Sergio Marchionne. Si chiude un'epoca che è stata gloriosa, perché si sono vinti più titoli mondiali che in ogni altra epoca ferrarista, e da domani bisognerà pensare a un futuro che non sarà assolutamente semplice, perché la Ferrari ha molto da recuperare dal punto di vista soprattutto motoristico e per tutto ciò che c'è attorno ai motori di una Formula 1 oggi. e in più dovrà ricominciare con un pilota nuovo, con Vettel, che non è ancora stato annunciato, ma ormai anche Sassi e Maranello lo sanno, un pilota che dal mio punto di vista è inferiore ad Alonso nella gestione della macchina in gara, però forse potrà essere superiore in qualifica, e soprattutto quello che si augurano in Ferrari dovrà cercare di compattare la squadra, cosa che Alonso non è riuscito a fare in questi suoi anni a Maranello. Certo, sarà una stagione anche la prossima molto difficile, perché il vostro ascoltatore prima del traffico diceva, sul dominio della Mercedes per 5 anni, il dominio della Mercedes che per la prima volta nella sua storia vince il titolo costruttore in Formula 1, quindi anche per la Mercedes oggi è un giorno storico. Però credo che il dominio Mercedes è destinato a proseguire, anche se forse, anzi speriamo, non proseguirà con lo strapotere di oggi, insomma. Sì, la partita importante è quella politica, è quella che si sta giocando in queste settimane per cercare di cambiare i regolamenti quel tanto che basta, sì, agli altri, per provare agli altri a colmare il gap, di riavvicinarsi durante la stagione. Ma quando arriva l'annuncio di Vettel? Tutto dipende da Alonso, perché la Ferrari ha questo patto d'onore con Alonso: fino a che lui non avrà deciso il suo futuro non verranno fatti annunci, e non è così semplice, perché Alonso sta cercando di spuntare un solo anno di contratto dalla McLaren motorizzata Honda dell'anno Venturo, perché il suo sogno è ovviamente quello di andare a sedersi su quella che è la macchina destinata a vincere nei prossimi anni, cioè la Mercedes, però i due posti lì sono ai per lui occupati, e d'altra parte, se io fossi nella Honda o nella McLaren, perché dovrei firmare un pilota soltanto sì, per certamente non in una posizione di forza Alonso in questo momento, e lui è sicuramente, esatto, si è messo con le spalle al muro e adesso dovrà accontentarsi di quello che gli verrà poi proposto da Ron Dennis, che non dimentichiamo un suo vecchio nemico. Grazie direttore. Grazie a voi, buon pomeriggio. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport, 800 24 00 24, vi aspetto per sapere che cosa ne pensate della nazionale di Conte e di questa crepa che ha aperto Mario Sconcerti, che è uno dei più importanti commentatori di calcio italiani, che ha detto: io per questa nazionale non mi entusiasmo, Conte non ha portato niente di nuovo, questa è una squadra come quella di prima, anzi forse anche più scarsa, una squadra che in Italia non arriverebbe al quarto posto, non sta andando benissimo nemmeno l'Italia della pallavolo. Dario Ricci. Sì, ben ritrovati dal Forum di Assago. Giovanni, primo set col Brasile nettamente avanti 20-13, sembra di vedere l'Italia timorosa e incerta dell'inizio di ieri con la gara con la Cina, e intanto invece Sheila, Thais e compagne hanno dato spettacolo in ricezione, in attacco, insomma, che abbiamo capito ben poco. Un po' meglio è andato con l'ingresso in campo di Diouf e Piccinini, un'Italia che ha ritrovato qualche punto, ma che ben difficilmente riuscirà a recuperare questo set. Brasiliani molto concentrati, c'è Roberto, ha schierato il sestetto titolare, e ora avanti 20-13 con la Chirichella imbattuta in questo istante, Giovanni. Sì, mi sembra ci sia una questione psicologica più ancora che tecnica in questo inizio shock. Ma devo dire che c'è anche il Brasile dall'altra parte, eh? Le brasiliane hanno sbagliato nulla, mentre ora invece la Chirichella ha sbagliato il servizio, quindi siamo 21-13, direi verde oro perfette, e questo certo non ha aiutato l'Italia a entrare in ritmo, direi anzi forse in questo caso, a dispetto di ieri, è più una questione tecnica, perché quello che si è visto nella metà campo verde oro è sicuramente di alto livello. Certo, c'è anche il fatto che alcune giocatrici che ci hanno portato fin qui giocando ad altissimo livello, ad esempio Costagrande e Arrighetti, in queste ultime due gare stanno facendo davvero tanta fatica, così come tutta la nostra ricezione. Adesso è il Brasile che sta ancora in attacco, Sheila l'ha schiacciata ed è ancora appunto 22-13 per il Brasile. 22-13 per il Brasile in questo primo set della finale per il terzo e quarto posto. Resta lì, abbiamo ancora un minuto. Io intanto vi leggo i risultati della Serie B, perché oggi si giocava l'ottava giornata. E ieri Provercelli Spezia 1-0, Modena Brescia 1-1. Oggi 12:30 la vittoria esterna del Bari 3-2 a Catania. E poi nelle partite del pomeriggio, Avellino Carpi 1-0, Avellino che in questo momento è capolista, e il successo esterno del Pescara Crotone per 4-1, il 4-0 del Lanciano contro il Vicenza, il 2-1 esterno del Bologna a Latina e il 6-0 del Livorno sul Trapani. Un flash ancora, Dario Ricci dal Forum. Dario, ecco la battuta di lei, l'esempio di Valentina Diouf, che anche oggi sembra ispirata, così come ieri sera al servizio. L'Italia si riprova a rifarsi sotto 23-15, quarto punto per 23-15 Diouf. Ma siamo ancora lontanissimi, c'è il GR, poi torniamo. Sentiamo se risponde. Risponde? Pardo? Dove sei? Tom? Pier, ciao. Dai. Come va? Ah, no, vabbè, pure oggi. Sei in diretta, sei in diretta. Come sono in diretta? Sono le 18:05 per Luigi. Tutti convocati. Sono, sei qui nonostante, diciamo, il trauma da matrimonio. Sì, com'è andata ieri? Bene, bene, trionfo, grande festa, informale, in famiglia, poca gente, grande entusiasmo, felicità. No? Il menù, poi parliamo della nazionale perché ci aspetta un'ora interessante, Pier. Ma mi aspetta un'ora interessante, spero. Il menù, che hai mangiato? Era, diciamo che era un po' un Roma-Milano, no? Perché c'erano le due anime, dello sposo e della sposa, quindi roba di porchetta e soprattutto riso alla milanese, quindi riso giallo, no? Riso giallo e ovviamente la matriciana, insomma. Antonio ha fatto il bravo? Antonio sì, ha fatto. Che ha mangiato Cassano? Che ha mangiato? Mangiano poco perché è molto tonico per la stagione, ha fatto chiaramente il gavettone al prete, ma non c'era quota, ha fatto le corna ai testimoni, per il resto tutto bene. Sì, va bene, adesso però parliamo delle robe serie. 800 24 0024. Ci sentiamo presto. Pier, la nazionale, ti è piaciuta? Dai, ciao Ciccio. Pier. Ciao a tutti, ciao. Pier. Volevo sapere se sei talmente attaccato alla nazionale che lo costringerei a passare la prima notte di nozze con te o se lo lasci con la moglie almeno stasera. Fosse per me, doveva tagliare la torta e tornare subito in ritiro, quindi non. Poi, valutando un pochettino il più e il meno, lasceremo qualche ora. E poi ci sarà una macchina che lo porterà qui a Coverciano. No, la mandiamo anche noi la macchina a Pierluigi, 800 24 0024. Ma come si fa a lasciarci qui la domenica? Enzo Bucchioni, ciao. Ciao, ciao, buon pomeriggio, bentrovati. Come si fa a lasciarci qui da soli la domenica solo perché ci si è sposati il giorno prima? Ha fatto il grande passo, mi avete dato la notizia, ho preso un buco, non lo sapevo. Ah sì? Guarda, ne hanno parlato in pochi. 800 24 0024. No, oggi Pardo non c'è, ha messo giù, torna domenica prossima, però voi chiamate, perché fra un po' cominciamo a parlare anche con gli amici da casa. La provocazione è quella che abbiamo sentito prima sulla nazionale di Conte, la provocazione di Mario Sconcerti. A me questa nazionale non entusiasma, mi sembra una nazionale di pochissima qualità, se possibile anche meno qualità di quella che l'ha preceduta. Una nazionale così non arriverebbe quarta nel nostro campionato. Io non so come la pensi tu, Enzo. Ma io la penso in maniera nettamente opposta rispetto a Sconcerti, rispetto a tutte le opinioni differenti dalla mia, ma ci siamo dimenticati troppo in fretta di cosa abbiamo visto ai mondiali. Sono passati 3 mesi, ma ricorderete una nazionale che non riusciva a tirare in porta, che non capiva, non sapeva che tipo di gioco adottare. A un certo punto era in una tale confusione che abbiamo visto 4 playmaker in campo contemporaneamente, senza un'idea di gioco. E quindi ben venga Conte con il suo banale, se volete, 3-5-2, ma efficace, perché con questo modulo ha vinto 3 scudetti con la Juventus. Ben venga Conte che ha messo in campo il blocco juventino, lo fa giocare come sa. Gli manca qualcosa, certamente, perché i campioni del nostro campionato non ci sono, il nostro calcio è ai minimi termini. All'orizzonte c'è qualche giovane, possiamo sperare su questo, ma 20-25 giocatori da convocare sono questi, non ce ne sono altri, non possiamo discutere. Sì, è anche vero che lui ha cambiato poco o nulla anche a livello di gruppo, alla fine non ha congedato quasi nessuno. Mi viene il paragone con la Spagna, ad esempio, che usciva da un fallimento e ha iniziato un profondo rinnovamento. Noi siamo ancora lì attaccati alle 35 primavere di Pirlo, con Verratti che fa l'elastico con la panchina, poi chissà quando tornerà De Rossi. Da questo punto di vista Conte non ha dato niente di nuovo a questa nazionale. Sì, ma cosa poteva dare in poche settimane, perché quanto avrà lavorato in tutto? Avrà lavorato 15 giorni, se sommiamo i giorni che ha avuto a disposizione gli azzurri, quindi diamogli un pochino più di tempo. Io credo che si sia affidato ai suoi, al suo gruppo storico, avremmo fatto tutto tutti così, la Juventus ci ha lavorato 3 anni, conoscono a memoria i meccanismi, penso anche a Pirlo, Pirlo aveva già detto addio alla nazionale, serve in questo momento a Conte, magari per insegnare anche a Verratti come dovrà muoversi. È chiaro che il futuro sarà Verratti, non può essere Pirlo, però siamo in un momento di transizione e quei pochi giovani che ci sono in circolazione li sta chiamando. Io chiamerei di più in più Bernardeschi della Fiorentina, che è un giovane molto interessante, un altro attaccante, ma chi chiameresti? Cioè, la domanda la faccio io, c'è un giocatore che ha lasciato a casa Conte? E questo è il dramma del nostro calcio. Probabilmente non c'è un giovane oggi lasciato a casa. Ne parlavamo però prima con Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport. Io trovo un paradosso che il giorno in cui tornerà De Rossi, nei piani di Antonio Conte ne giochi uno tra Pirlo, De Rossi e Verratti, in un momento in cui noi abbiamo evidentemente un problema di qualità, un problema di esperienza, un problema anche di carattere. Cioè, abbiamo un problema perché non abbiamo grandi giocatori. Questi sono 3 grandi giocatori, nei piani di Conte, nella testa di Conte ne gioca uno. Questo secondo me è un paradosso. Altrimenti ricadiamo nell'errore di Prandelli, però, che li ha fatti giocare tutti e 3 assieme proprio per non risolvere il problema. Questi sono 3 giocatori che giocano bene davanti alla difesa, sono 3 centrali, sfortunatamente fanno il solito ruolo, e se li cambi di posizione e li metti a giocare da interno non hanno più non vanno più senza palla in verticale, cosa che fanno Vidal e Marchisio nella Juventus di Conte, facevano la Juventus di Conte, e sono funzionali al 3-5-2, altrimenti diventa un modulo troppo banale e prevedibile se i due interni non vanno senza palla e non verticalizzano, e non lo possono fare né Verratti né Pirlo e né De Rossi. Tutte e 3 devono giocare davanti alla difesa. In questo momento il migliore nel ruolo secondo me è De Rossi, e quando tornerà anche il grande Pirlo dovrà stare a guardare, perché serve un giocatore che protegga anche la difesa all'Italia. Quindi insomma sono squiglie tattiche, se vogliamo dire, i giocatori sono questi, purtroppo in Italia non ce ne sono altri, e grazie a Dio Conte gli ha dato l'identità, perché il 3-5-2, ripeto, almeno sappiamo come gioca l'Italia, prima non lo sapevamo. Io in 4 anni di Prandelli una volta abbiamo visto il 3-4-3, un'altra volta il 3-5-2 raramente, non sapevano neanche più soprattutto loro. Nel secondo biennio c'è stato un passo indietro, c'è stata una certa confusione, però Enzo, è evidente che Conte fin qui ha goduto anche di una fisiologica luna di miele con la critica, col pubblico. Quello con l'Azerbaigian venerdì è stato un piccolo passo indietro, però aspetta, c'è il traffico. Poi mi dai la risposta. 800 24 00 24, aspetto anche voi, traffico. Tutti convocati. Allora, per chiudere con Enzo Bucchioni, direttore del QS, mancava l'ultima risposta velocissima su questa luna di miele finita tra Conte e la critica. Ma non credo, c'è un ritorno di fiamma degli amici di Prandelli, come sempre anche fra i giornalisti ci si divide, diamogli tempo per lavorare Conte e speriamo che spunti qualche giocatore nuovo, soprattutto in questo momento la nazionale mancano gli esterni, gli mancano Lichtsteiner e Asamoah alla sua Juventus, non è poco, ci auguriamo che li trovi strada facendo. Sì, esterni che domani a Malta dovrebbero cambiare. Grazie Enzo. Grazie a voi, buon pomeriggio, ciao Giovanni, a presto. Grazie Enzo Bucchioni, direttore del QS. Saluto Luca Marchegiani, ciao Luca. Buonasera a tutti. Ciao Luca, questa sera ore 20:45, impegnato nel commento di Lussemburgo-Spagna su Sky Sport 1, perché questa è una giornata comunque con tantissimi appuntamenti per le qualificazioni all'Europeo del 2016. C'è anche chi sta giocando già, ad esempio l'Inghilterra in Estonia, la Russia contro la Moldavia, poi c'è anche la Svezia di Ibra che torna questa sera sempre alle 20:45 contro il Liechtenstein, tutto su Sky Sport. Luca, ti faccio sentire una cosa, così partiamo da un ruolo che tu conosci bene. Il tocco corto per il gran tiro, sorpreso Casillas, la Slovacchia in vantaggio per 1-0. Kučka con un destro violentissimo batte Iker Casillas. Piszek, il cross per Milik, segna la Polonia con Arkadiusz Milik, sbaglia Neuer, segna il ragazzino, 1-0. Oh, che succede ai grandi portieri europei, Luca Marchegiani? Abbiamo visto caduti nella trappola di questo turno di qualificazioni. Beh, a parte che il portiere è un ruolo talmente delicato, e questo, con il calcio di oggi, i palloni di oggi, la specializzazione di alcuni calciatori che veramente sono diventati bravissimi in alcuni fondamentali che ai tempi miei erano diciamo così meno, ci si prestava meno attenzione, calci piazzati, cross, capacità di andare non solo ad anticipare ma di infastidire il portiere, è diventato molto più difficile, questo va detto. Perciò può capitare di sbagliare. Secondo me c'è una differenza fondamentale fra Neuer e Casillas. Ma secondo te Casillas è ancora un portiere di primo livello? No, allora Casillas merita tutto il rispetto di chi lo giudica, perché comunque è un portiere che ha fatto delle cose straordinarie. In questo momento è un portiere in clamorosa fase calante, secondo me ha fatto un pessimo mondiale, non si sta riprendendo. Gli ultimi due allenatori del Real Madrid prima di quest'anno l'hanno tenuto in panchina per far giocare Diego Lopez. È evidente che è un portiere in fase calante, e mi meraviglia che la Spagna, che ha ottimi portieri sia in patria che in giro per l'Europa, non pensi di fare un cambio generazionale, che a questo punto secondo me è diventato fondamentale. Sì, tra l'altro un cambio generazionale che la stessa Spagna ha fatto in altre zone del campo dopo il fallimento del Mondiale. Ne abbiamo parlato anche prima, noi restiamo attaccati a Pirlo, ovviamente non si possono fare paragoni. Ad esempio questa Spagna non ha più Xavi, non ha più alcuni dei giocatori che l'hanno resa grandissima in questi anni, sta facendo fatica, questa sera dovrebbe certamente riuscire a rialzarsi dopo la sconfitta in Slovacchia. È però in un momento di transizione, di profondo cambiamento. Sì, è vero. Secondo me la Spagna deve in fretta dare delle risposte, non tanto per quello che riguarda il discorso qualificazione, perché obiettivamente con questo europeo allargato è praticamente impossibile che le squadre di livello non si qualifichino. Tre posti per ogni girone garantiscono, poi alla fine al limite passando per i playoff, comunque garantiscono alle grandi di arrivare alla fase finale. Però secondo me è una squadra che è cambiata molto, è cambiata proprio sotto l'aspetto della mentalità. Secondo me hanno la consapevolezza che il loro gioco non è più un gioco così vincente come due anni fa, perché gli avversari conoscono, perché probabilmente hanno perso un pochino di freschezza, un pochino, una squadra un po' usurata, no? Tanti giocatori che per tanti anni hanno avuto gli stessi input sia a livello di club che a livello di nazionale. Parlo principalmente del Barcellona, che poi ha continuato a vincere perché comunque ha dei fenomeni anche non spagnoli, perché Messi è chiaro che cambia le sorti di una partita, Neymar cambia le sorti di una partita. La Spagna questi giocatori non ce l'ha, hanno deciso di puntare su un centravanti diverso rispetto a quelli degli ultimi anni come Diego Costa, che però va servito in una maniera differente rispetto a come lo sta sfruttando la Spagna. Non hanno ancora imparato come si gioca con un centravanti vero dopo per tanti anni aver giocato con il falso 9, con uno schema meraviglioso perché funzionava tutto alla perfezione e che evidentemente credo non sia replicabile. Non è soltanto una questione di qualità e caratteristiche degli interpreti. Volevo chiederti invece che cosa ne pensi della Germania, perché in questa grande trappola, perché le qualificazioni europee sono anche una grande trappola, ieri abbiamo visto cadere la Germania, poi guardi i numeri, ti accorgi che ha tirato 22 volte in porta, che probabilmente non meritava di perdere, però anche la Germania sta mostrando nel dopo mondiale qualche crepa ogni tanto, qualche passaggio a vuoto, forse fisiologico? Ma io credo di sì, io credo che il discorso della Germania sia diverso, è solo una squadra che sta pagando un po' l'ubriacatura del mondiale. Quando si vince un torneo così importante è difficile immediatamente ricalarsi in partite che anche dal punto di vista della, non voglio dire della motivazione, ma sicuramente del tutto quello che c'è intorno, comunque danno qualcosa di meno, no? Rispetto a una finale mondiale, rispetto a un mondiale in Brasile che è ancora troppo recente per essere smaltito, ecco questo. Però la Germania secondo me è una squadra che ha grandissimi talenti. Löw è un allenatore bravo, perché comunque anche ieri abbiamo visto che cerca di riproporre giocatori nuovi. Non è una squadra che si fossilizza su alcuni giocatori. Io credo che il problema della Spagna sia quello, no? La differenza sia proprio questa: la Spagna per anni veramente si è basata sempre sugli stessi giocatori. Löw questo l'ha capito e sta cercando di cambiare. Ci sono stati degli esordi, giocatori giovani tipo Kramer, tipo Draxler, che comunque per il prossimo europeo, ma soprattutto per il prossimo mondiale, saranno dei punti di forza. Sì, ha già pronto il futuro, detto che poi la Germania ha perso in Polonia. La Polonia non è certamente una nazionale di secondo piano. Per chiudere, Luca, in tutto questo io dico, e stiamo parlando anche delle critiche che stanno piovendo in queste ore sull'Italia di Conte, teniamoci stretto il 2-1 con l'Azerbaigian, proprio perché questi risultati, ma anche tanti altri, ha perso la Svizzera, ci sono le difficoltà della Svezia, anche della Russia, tutti questi risultati dimostrano che per quanto poi alla fine andranno tutti agli europei a meno di tragedie, le qualificazioni nascondono comunque delle difficoltà. Sì, perché comunque tutte le squadre sono organizzate, ormai non si vince più sulla carta nessuna partita. Quello che è successo all'Italia secondo me è un'altra cosa abbastanza prevedibile. Dopo la grande adrenalina che c'è stata con la prima partita di Conte, è chiaro che la squadra ha subito un po' una flessione dal punto di vista dell'attenzione e della concentrazione. Poi queste sono quelle partite in casa contro un avversario poco blasonato, nel momento in cui la sblocchi pensi di averla già vinta, invece poi in realtà non è così, però io credo che non sia preoccupante questo. Quello che forse è un po' preoccupante per quello che è il panorama calcistico italiano è che bisogna cercare di tirar fuori i giocatori. Il calcio italiano deve riuscire a tirar fuori più giocatori che possono diventare giocatori della nazionale, che comunque hanno un valore tecnico e di esperienza in grado di poter far parte della nazionale. Questo è un po' il problema. Sì, no? Cosa che in questo momento manca. Prima abbiamo parlato del caso Verratti, penalizzato dal suo ruolo. Qualcosa si è mosso, mi pare di capire, ad esempio tra i portieri, dove per qualche anno siamo rimasti fermi. Oggi si vede qualcosa di interessante che propone anche il campionato alle spalle del solito Buffon. Sì, però se noi andiamo a vedere, l'unico portiere di livello internazionale alle spalle di Buffon è Sirigu, perché Perin comunque gioca nel Genoa, con tutto il rispetto per il Genoa, c'è una squadra che gli sta dando grandissima visibilità, però è una squadra che non fa le coppe europee e che non dà all'atleta l'esperienza internazionale che serve poi per poter affrontare partite di quel livello. Il problema dei giovani portieri italiani è questo. E poi c'è il mistero di Scuffè, che addirittura ha perso il posto, adesso è infortunato, ma in generale ha perso il posto da titolare nell'Udinese dopo aver vissuto 3 mesi da predestinato. Poi un giorno qualcuno ce lo spiegherà perché Karnezis gioca e Scuffè sta fuori. Misteri del calcio italiano, Luca. Sì, Stramaccioni l'ha spiegato in una maniera che può convincere più o meno. Un po' aziendalista, ma questo è un mio parere, eh. Il problema è che noi, prima si parlava della Spagna, no? Che tende comunque a pensionare presto giocatori ancora validi, parlavate di Xavi, in Italia è il contrario, si aspetta sempre troppo secondo me prima di dar fiducia e responsabilità ai giovani di talento, e si aspetta tanto, non voglio dire troppo perché non mi va di mancare di rispetto a nessuno, però si aspetta tanto prima di fare quei cambi generazionali che sono fondamentali per dare vigore, per dare futuro a un intero movimento. Poi il rischio di costruire giocatori che a 25-26 anni non hanno la famosa esperienza internazionale, quella che tanti altri stranieri invece hanno. Grazie Luca, questa sera 20:45 Sky Sport 1 Lussemburgo Spagna, e poi comunque c'è tutto il resto del programma di questa domenica di qualificazioni europee su Sky. Grazie a Luca Marchegiani. Dario Ricci, Forum. Eccoci qua, è appena iniziato il terzo set, Giovanni 1-1 tra Italia e Brasile, ma brasiliane avanti nettamente per 2-0 al 15-25 del primo parziale, si è aggiunto un pesante 25-13 del secondo. Pensate, fino all'11-10 azzurri avanti, trascinati da una straordinaria di Uff, poi si spenta la luce parziale di 0-14 per le brasiliane. Ora intanto è stata la di Uff a siglare il 2-1 per le azzurre, parziale di 0-14 con errori imbarazzanti soprattutto in ricezione, male, molto male la Posetti, e parziale che poi si è chiuso sul 25-13. Non riusciamo a entrare in partita, molto merito va anche alle nostre avversarie finora perfette, soprattutto in poche palle che ci avrebbero permesso di rimanere in gioco. Adesso però ci ritroviamo ancora, Italia avanti 3-1, per una volta l'attacco brasiliano si inceppa, hai visto mai? proviamo ancora a crederci. Per ora Brasile 2 Italia 0, 3-1 azzurre nel terzo set. Sì, credo che sia la prima volta in questa partita che l'Italia tiene un doppio vantaggio, 3-1. Siamo all'inizio del terzo set, strada a dir poco in salita in questa finale per il terzo e quarto posto. C'è chi chiede di Zaza Immobile se non sono giovani abbastanza. Per carità, però devono anche crescere, e Immobile poi ha dovuto andare in Germania per trovare spazio a livello di poter fare esperienza europea, quell'esperienza ad esempio che ha Verratti. Io continuo a tornare sul discorso, non capisco perché un giocatore come Verratti in questo momento storico, in questo contesto, non possa essere titolare indiscusso, indiscutibile della nostra nazionale. 800 24 00 24, ci fermiamo, pubblicità. Oggi mi è stata offerta un'altra occasione grandiosa in un top top club, perché la nazionale è top del top. Tutti convocati. Non sono favorevole perché ci sono delle, perché è una situazione surreale, ci sono delle cose che a distanza di giorni e dopo giorni non si riescono a decifrare neanche con una macchina. Io sono sempre stato ultra favorevole alla tecnologia, poi certamente bisognerà trovare la formula su che cosa applicare la moviola eccetera eccetera, ma praticamente io sono appassionato di basket, c'è l'instant replay in tutti gli sport ormai, ci sono negli sport americani, ci sono media, io credo che se la tecnologia esiste vada applicata. Questa è la sintesi perfetta della settimana folle che abbiamo vissuto, settimana aperta, ed era esattamente una settimana fa, da Juventus-Roma con i suoi errori, con tutte le polemiche che ha scatenato e che poi è proseguita aprendo il dibattito sulla moviola in campo. La federazione la vuole sperimentare dal 2015, Tavecchio che ha scritto a Blatter e si è detto pronto. Abbiamo sentito Gagliani e Allegri che hanno due idee diverse. Io saluto Tiziano Pieri. Ciao Tiziano. Buon pomeriggio, ex arbitro e moviolista. 90° minuto, processo del lunedì sulla Rai. Io non so che posizione hai tu, io esprimo la mia brevemente. Va benissimo la moviola sul gol non gol. Ragioniamo magari di decidere subito se a palla lontana un giocatore ha dato una gomitata, qualcosa, un avversario e quindi va espulso. Però il calcio è uno sport difficilmente misurabile in centimetri o in centesimi di secondo, come ad esempio l'instant replay del basket, che ti dice se un tiro è stato scoccato dentro o fuori il tempo. Io non lo so se la moviola è la risposta. Io dico, domenica scorsa secondo me si è avuta la conferma che in quel Juventus-Roma nemmeno la moviola in campo avrebbe aiutato a decidere per il giusto. Bravissimo, questa è la risposta. Io sono d'accordo con te su tutto, firmo in toto, nel senso che ormai è inevitabile che arrivi, i tempi sono maturi, ai mondiali abbiamo iniziato a vedere qualcosa di simile, il goal line technology, apro parentesi, la bomboletta spray. Sì, che è tecnologia per estensione. Io so che è stato messo anche nel programma della Federcalcio tra le innovazioni tecnologiche la bomboletta spray. In Brasile era anni che si usava, l'abbiamo un po' scoperta noi. È vero. Queste però sono tutte cose che fanno, anticipano qualcosa che avverrà sicuramente. Oggi Blatter ha cambiato radicalmente idea, perché forse non so se per motivi di poltrona o altro, però finalmente si è decisa a sposare questa idea della moviola in campo. Io credo che sia inevitabile e che ci voglia sicuramente una svolta. Se devono essere le partite che portano a discussioni, e non solo in Italia, certo è che si è alzato troppo l'asticella della polemica, ecco, su questa andrebbe riportata giù e poi studiare a tavolino, a voce ferme, e valutare l'introduzione della moviola in campo. Non sarebbe male anche partire ridando qualche certezza, ad esempio sul fuorigioco. Io torno sempre indietro di una settimana, perché poi abbiamo passato le prime ore dopo Juventus-Roma scoprendo che fra tutti i moviolisti, quelli che fanno la moviola in Italia, era difficile trovarne due con lo stesso parere, ad esempio sul fuorigioco, su quel fuorigioco passivo di Vidal. Mi chiedo cosa servirebbe la moviola, considerato che poi più che a misurazione oramai si va a interpretazione l'azione dell'arbitro, dell'assistente, sensazioni da campo che si possono anche sbagliare, ma che restano sensazioni da campo, a meno che non si voglia piazzare, non lo so, dimmi tu Tiziano, una telecamera su un casco per ogni giocatore per capire qual è la visuale, se davvero viene disturbato. Sì, siamo d'accordo. Allora, facciamo chiarezza innanzitutto. Chi è che decide? Perché sennò sembra sempre che siano gli arbitri che non vogliono la moviola in campo. Questo è un punto fermo. Chi decide è l'IFAB, l'International Football Association Board, che è un organo svizzero composto da 8 membri britannici. Quindi l'Italia non può decidere, né la Federcalcio né tantomeno l'AIA. A questo punto dico, bene, il fuorigioco è di una difficoltà oggi più che mai. Non tutti sanno che dal primi del 1900 è stato variato il fuorigioco, ossia prima non erano due calciatori che dovevano esserci tra la linea di porta e il calciatore, bensì erano tre, quindi è già stata fatta un'innovazione sul fuorigioco e ci sarà sempre, cercando di migliorare, lo spirito deve essere migliorare. A volte questi 8 membri forse non hanno giocato a calcio e non migliorano lo spirito. O forse hanno giocato a calcio nel secolo scorso. Ma sembra che proprio non abbiano giocato. Però no, nemmeno quello. Alcuni. Però questo non vuol dire, perché se c'è una regola che migliora il gioco, ben venga, credo, siamo tutti d'accordo. Questa sicuramente è mal digerita dagli stessi assistenti. Invece hai fatto un errore, ossia su Juve Roma ci sono stati pareri discordanti da parte un po' di tutti questi arbitrali su tutto, tranne, ma solo sul fuorigioco eravamo tutti concordi nel dire che era un gol regolare, che poi è stata l'interpretazione più difficile, perché detto sinceramente ha buon senso quello dell'Italia fuorigioco tutta la vita, però il buon senso non è regolamento, però, o meglio, non è interpretazione del regolamento. Ricordiamo che c'era un campione del mondo sulla fascia che si chiama Stefani, che ha fatto la finale del mondiale, quindi forse ha, rispetto ad altri assistenti italiani, ha approfondito e ha valutato questa nuova direttiva e l'ha applicata meglio degli altri. È una capacità. Ricordiamo che un assistente può anche prendere spunto da una reazione del portiere, dal tuffo del portiere, quindi intuire e capire al meglio l'interpretazione e applicarla al meglio la regola. Sì, sono dimensioni che in televisione non si possono cogliere. Bravissimo. Per questo dico, mi chiedo cosa serve, ad esempio su quell'episodio lì, cosa sarebbe servita la moviola in campo. Mi chiedo anche, e ti chiedo perché tu hai arbitrato per tanti anni, se ha senso pensare che un campionato importante come la nostra Serie A o anche solo la nostra Coppa Italia possa diventare un laboratorio eventualmente per la moviola, per la tecnologia in campo durante la partita. Quel progetto che forse ha in mente Tavecchio, che ha scritto a Blatter, secondo me con mossa assolutamente opportunista, Tavecchio che è a caccia di consenso in questo momento, evidentemente dopo quello che è successo domenica scorsa sono in tanti a spingere per la moviola in campo, però mi chiedo se la Serie A si possa ridurre a laboratorio. Allora guarda, innanzitutto bisogna capire se è la stessa mossa che ha fatto Blatter oppure è per, diciamo, andare incontro agli arbitri, far calare le polemiche, e qui benvenga una federazione forte che prende posizione, e io questo non l'ho visto però ad oggi, una federazione forte che difende anche gli arbitri, perché tutti hanno il diritto di critica e di cronaca, gli arbitri devono avere il diritto di sbagliare però. E invece su quanto riguarda il campionato, se deve essere fatto una prova o meno, ricordo che anche in passato è stato fatto, non in campionato ma magari in un torneo come può essere la Coppa Italia, con meno pressioni è stata fatta la prova, se ti ricorderai, del doppio arbitro, e poi è stata bocciata, si è fermata perché non ha portato positività o comunque sì, perché è stato valutato non funzionale a un miglioramento, interpretazioni diverse. Quindi può essere comunque una soluzione quella di provarla in Coppa Italia, a mio avviso. Vedremo se arriva dal 2015. Grazie Tiziano. Grazie a voi, buona serata. Grazie a Tiziano Pieri. Centrale per Tevez, si libera Tevez, va via, entra in area di rigore, Tevez col sinistro, schiacciato, contatto, tutto regolare dice l'arbitro, non c'è fallo secondo lui su Marchisio che allarga le braccia. Contatto c'è. Barriera con una mano, dice Pirlo. Calcio di rigore. Pallone tagliato sul secondo palo. Caseres, c'è un abbraccio, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma, fallo su Totti. Pallone centrale ancora per Llorente, lo fa girare per Pogba, c'è un contatto. Calcio di rigore di nuovo. Vidal. Vidal è fuori gioco. Fuori gioco su questa palla perché proprio è davanti al portiere. No, l'unica cosa che è un po' un peccato è che qui le grandi aree fanno 17 metri, è solo questo. Brutto dirlo, ma sono anni che abbiamo sempre gli stessi episodi e alla fine ci condizionano le annate. Perché tanto o quelle buone e quelle cattive vincono sempre. Tutti i complimenti per quello che fa in campo, però fuori dal campo non può uscirne così. Perché se un capitano di mia squadra esce così, dicendo che arrivano allo stesso secondi, la sesta giornata di campionato, non so se lo lascio ancora capitano. Uno dei tanti imbecilli oggi ha detto che Agnelli è ancora peggio di Moggi, c'è ancora più ladrone, cioè non si limita a telefonare, ma manda il bonifico. Di che cosa stiamo parlando? La Juve dei è centimetri di o dei bonifici? Ma non mi fare Juve piangere, sii buono. Riassunto sonoro di questa settimana folle, eh? Riassunto sonoro di questa settimana folle, Dario Ricci, Forum, ci sono segnali di vita? Sì, assolutamente, siamo 16-11 per le azzurre al momento del secondo time out tecnico del terzo parziale, ricordiamo 25-15, 25-13 per il Brasile, il primo e il set, ma in questo terzo parziale l'Italia trascinata da una straordinaria Valentina Diouf, 19 punti per lei, è riuscita a staccare le brasiliane e adesso siamo in battuta con la Posetti, finora incerta e per poco in ripetizione, ma molto efficace al servizio che ha portato molto dinamismo in difesa. Siamo riusciti finalmente a rialzare alcuni degli attacchi di Sheila e Jacques. Vediamo ancora il Brasile in avanti, fortunata in questa occasione Sheila che riesce a far passare la palla al di là del nastro, 16-12 per le azzurre. Grazie Dario, resta lì perché torniamo ancora nel finale, quindi c'è qualche segno di risveglio da parte della nostra nazionale sotto 2-7-0 contro il Brasile, finale per il terzo e quarto posto del mondiale, ma in questo terzo set 16-12 siamo davanti, traffico. Teghi dopo Aragon per Marc Márquez, campione mondiale 2014. Marc Márquez e Valentino Rossi sul podio, podio di fuori classe, podio di leggende. E per Marc Márquez, arrivano i samurai anche per Márquez. È la prima volta che la Honda vince nel suo circuito il titolo mondiale. In questo momento non posso dire tante cose, solo che logicamente sono molto felice. Anche pure per la gente è sembrato un campionato facile, ma la pressione era là. Sì, io sempre rido, sempre sono felice, ma la pressione si sente. E dopo delle ultime gare che ho fatto qualche errore, ma questo senza il team, senza Honda, senza la famiglia non si può fare. Così contentissimo. E dai, questa notte lo celebriamo bene, che si è fatto bene quest'anno. Come lo celebrerai? Non lo so, ma qua a Giappone penso che è tipico il karaoke, così andiamo a cantare un po'. We are the champions. Ciao. Il samurai Márquez che per festeggiare il secondo titolo mondiale va a fare il karaoke. Giacomo Agostini, ciao Giacomo. Ciao. Ci credi che va a fare il karaoke o si fa altro per festeggiare il secondo titolo mondiale a 21 anni? Ma direi che si può anche fare altro. Si possono fare anche altro, solamente che non possono fare tanto, perché domenica c'è già un'altra gara di campionato del mondo in Australia, quindi domani dovranno prendere un aereo e partire. Mi sa che sì, si divertiranno, ma non faranno la sbornia dei due giorni, ecco. Sì, e comunque anche in questi piccoli particolari mi sembra che Marquez dimostri, cosa che del resto già si sapeva, una maturità forse superiore ai suoi 21 anni, un approccio professionale superiore a quella che è la sua età, perché resta in fondo un ragazzo. Beh sì, effettivamente è ancora un bambino, però anche oggi ha guidato da professionista, ha capito che con Lorenzo era dura, però vinceva se riusciva a superare Valentino, quindi ha fatto di tutto per stare davanti a Valentino, poi si è accontentato. Poteva forse anche cercare di battagliare con Lorenzo, però è stato intelligente, ha capito che era campione del mondo così, ed è rimasto e il titolo gli è arrivato, insomma. Sì, assolutamente un predestinato, 21 anni, 2 titoli mondiali, 17 vittorie in 33 Gran Premi nella MotoGP. Discorso affrontato già più volte, cioè se sia predestinato, destinato a riscrivere le gerarchie, i valori, la storia della moto. Fuori di dubbi, sì, da come sta andando, sta già dimostrando di essere un grande talento. E quindi io credo e sono convinto che avrà una carriera molto lunga. Quanto pesano queste vittorie? Perché poi le vittorie vanno anche pesate. Tu lo hai sentito, lui ha detto: per tanti questa è stata una stagione facile, perché ho vinto sempre, perché avevo una moto velocissima, e invece non è stato così semplice come è sembrato. Beh, sono d'accordo, nel senso che noi da fuori possiamo pensare che sia facile, ma andare a 330 all'ora non è facile. Quindi sembra facile, ma la lotta c'è, devi guidare sempre al 100%, può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi secondo, quindi non puoi mai mollare, è un mestiere abbastanza impegnativo e non devi mai distrarti, perché purtroppo puoi pagare e sai, la velocità è, insomma, è pericolosa, nel senso che se sbagli a 300 all'ora purtroppo puoi avere delle conseguenze, quindi ecco perché dico, non bisogna mai mollare, bisogna sempre essere attenti, come avere un'arma carica. Sì, lui è stato un ragionatore da metà stagione in poi, quando è stato chiaro che avrebbe vinto questo mondiale ha cominciato un po' a fare i calcoli, non li ha fatti solo oggi, e mi piace capire cosa ne pensi ad esempio di quei segnali di risveglio che abbiamo visto da Lorenzo, anche da Valentino Rossi, dalla Ducati in questo fine settimana, se in proiezione verso l'anno prossimo possono significare che avremo un mondiale più equilibrato o se semplicemente Marquez ha leggermente chiuso la manopola del gas. Ma direi che Marquez è partito al 110% e ha demoralizzato tutti. E poi naturalmente andando sempre al 110% lui si era abituato, ma purtroppo non puoi sempre, e quindi ha incominciato una piccola scivolatina di qua, una cosa è andata storta di là, insomma sono cose che capitano durante una stagione. E allora c'è un attimino, lui ha sempre voluto vincere, ha sempre voluto tirare al massimo comunque, anche dopo le scivolate. Io credo che solamente oggi ha rinunciato a guidare al 100%, perché forse gli hanno fatto anche un lavaggio di cervello, nel senso che gli hanno fatto capire che importante era vincerlo lì il campionato del mondo, perché comunque l'avrebbe vinto anche settimana prossima. Però in Giappone, casa Honda, davanti a tutti i suoi capi, i dirigenti Honda eccetera, era un regalo che avrebbe fatto ai giapponesi, quindi ha usato la prudenza tra virgolette, è riuscito appunto, come ho detto prima, ad arrivare secondo, e secondo lui era campione del mondo. Sì, c'erano mille motivi per cui doveva vincere oggi. Grazie Giacomo. Grazie a voi, ciao. Grazie a Giacomo Agostini, forse ce la facciamo. Dario Ricci. Eccoci, 22-19 per le azzurre nel terzo parziale, ancora una volta trascinati da Zucco, che ha messo a sfiglia un pochi istanti fa il suo 21esimo punto. Le azzurre sono a più 3 e possono giocarsi questo set. Brasiliani che hanno rallentato, malgrado questa bella veloce attacco in primo tempo di Saïssa che porta il Brasile a 20, Italia ancora avanti 22-20, Jacqueline per il Brasile in battuta, le azzurre hanno avuto anche un bel muro di risposta grande e gli attacchi della Del Torre, ora però proprio la Del Torre sbaglio ricezione, può ricostruire il Brasile, ma c'è il muro della Chirichella su Ceira, siamo 23-20, 23-20, no, muro di Posetti, veramente spettacolare questa chiusura a muro di Chirichella e Posetti che hanno tolto qualsiasi spazio all'attacco di Ceira, il pallone è ricaduto nella metà campo brasiliana. Quindi 23-20 in questa volata del terzo set, Italia sotto 2-0, tra pochi minuti ancora aggiornamenti dal forum nel corso di GR24 con Dario Ricci che saluto e ringrazio. Noi abbiamo finito, ringrazio Claudia Scattone in redazione, Paolo Corleoni, Valeria Bernardi in regia, io torno domenica prossima a partire dalle 17, domani invece c'è Carlo Genta dalle 14, ciao.